Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Un sabato pomeriggio, sentendomi molto fortunato e non trovando nessuno che venisse con me, partii con la mia Fiesta 900 con destinazione Casinò di Seefeld. Ciao, sono Claudio, abito a Casinò Macciugana in Trentino e ho 48 anni compiuti da poco. Lavoro nella pubblica amministrazione, sono sposato con Laura e in questo momento sono in vacanza con lei e festeggerò il Natale a Città del Messico. Avevo poco più di 20 anni, scrive Michele, con altri 3 amici partimmo destinazione Porto Rose, Slovenia. Il Casinò era solo il contorno della nostra vacanza, non era la meta. Entriamo, proviamo, mi fiondo al tavolo del blackjack, inizio a vincere. Arrivo puntando timoroso 5 euro per volta a conquistarne 40. Dopo una mezz'ora li perdo tutti e vado sotto di altri 40. Almeno con consolazione posso dire di aver giocato al Casinò. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia, sono le 16:08 e oggi prendete il telefono in mano e chiamate l'800240024 perché si parla di Casinò. Partiamo dalla storia di Claudio che, come avete sentito, annuncia di quando da ragazzino salì sulla sua macchina e andò in un Casinò vicino a casa sua. Lui è trentino e andava in Austria. Se però voi siete abituati a farlo, se ci siete andati una volta e non ci siete mai più tornati, se avete perso 100.000 intendo come 100.000 lire o 100.000 euro, 800240024 è sempre un luogo che comunque ti rimane impresso, il Casinò. Se anche ci sei andato 10 volte, c'è una volta che ti ricordi perché hai vinto tantissimo o perché hai perso tantissimo. Io credo di non essere mai veramente entrato in un Casinò vero, uno di quelli... Ah no, non è vero, ci andai una volta per un lavoro a Campione d'Italia. Possibile? Che non ho mai capito se è Svizzera o Italia, Campione d'Italia. È in Italia, è sul lago di... Non mi ricordo, mi ci portarono, ragazzi, ero giovane, mi ci portarono. 800240024, oggi prendiamo le telefonate per sapere quando siete andati al Casinò, quanto avete perso, a che gioco avete giocato, chi ci vi ha portato, e tutto quello che riguarda il Casinò, com'era, quante persone c'erano, se ci siete andati per un motivo ben preciso, semplicemente perché volevate perdere dei soldi. 800240024. Andrea scrive sul profilo Facebook del programma: 1996, uno dei primi viaggi da 18enne spiantato. Su una nave per Patrasso infilai qualche dracma nella slot. Ricordo il tintinnio e l'equivalente di 1.000.000 lire in monetine. Partì sempre con quel P che ha in tasca. La provvidenza esiste. Evidentemente c'è un errore di battitura. Però Andrea vince 1.000.000 lire nel 96 su una nave. 800240024. Sulle navi da crociera ci sono i Casinò, mi pare. Non su tutte, però in alcune navi da crociera ci sono il Casinò. Quanto avete perso? Come vi siete sentiti quando avete perso, quando avete visto che i vostri soldi se ne andavano? 349-238-6666 per inviare un sms, oppure 800240024 per telefonare in diretta. La storia che raccontiamo oggi, che è la storia di Claudio, parla di 2 episodi legati al Casinò. Il primo è appunto come ci andava, perché ci andava e quanto ci perdeva. Il secondo invece racconta del suo viaggio di ritorno. Per la vostra gita al Casinò invece, 800240024. All'epoca dei fatti avevo super giù 20 anni. Abitavo ancora con i miei genitori. Vivevo e vivo tuttora in un paese diventato città da pochissimi giorni, di nome Pergine Valsugana. Questo paese, o meglio questa città, si trova in Trentino ed è famosa, se così si può dire, perché fino al 2002 era presente il manicomio. Da qualche tempo, con i miei amici, annoiati della vita di paese, per rendere i sabati sera più interessanti, avevamo iniziato a frequentare i Casinò. L'idea era venuta a un nostro amico camionista, che aveva girato tutta l'Europa e sapeva quindi il vivere del mondo. Facevamo molto ridere, noi, cresciuti in jeans e maglietta, tutti in giacca e cravatta, ma per entrare in quei luoghi si dovevano nascondere le apparenze dietro un bel vestito. Mi ricordo ancora la mia prima volta al Casinò di Venezia. Il nostro amico camionista durante il viaggio ci aveva istruito su come funzionava lì dentro. Quando puntate, diceva, tenete d'occhio la vostra fiche fino all'ultimo momento, perché c'è un sacco di brava gente che ti vuole fregare la vincita. Poi ci consigliò che per cominciare sarebbe stato meglio puntare sul pari o dispari e sul rosso o il nero. E così incominciò. Il nostro budget era molto basso, quindi nel giro di pochi minuti finimmo tutti i soldi e cominciammo a guardare gli altri giocare. Guardavo le persone che letteralmente coprivano di fish il tavolo verde e mi chiedevo quanto stessero perdendo. Noi fortunatamente, su consiglio dell'amico, ci eravamo portati 100.000 lire a testa e pertanto quella era la nostra perdita. Ma prima di quella volta lì, noi al casinò siamo stati 3 o 4 volte. Parlare di vincite no, sicuramente, perché mi usciva sempre in debito. Riuscivamo solo a mettere via i soldi per il ritorno se c'era l'autostrada o la benzina, le cose qua. I casinò più vicini a dove abitavamo erano 2, precisamente quello di Venezia e quello di Seefeld, nella vicina Austria. Per arrivarci ci si impiegava in entrambi i casi all'incirca 2 ore, ma in quello austriaco ci si andava di più perché con il biglietto di entrata ti davano il corrispondente in fish e per degli squatrinati come noi era perfetto. I casinò erano in ogni modo molto lontani da casa, pertanto le nostre uscite si limitavano ad essere più o meno 3 al mese. Un sabato pomeriggio, sentendomi molto fortunato e non trovando nessuno che venisse con me, partii con la mia Fiesta 900, destinazione Seefeld. Il viaggio era piuttosto lungo, ma avevo la mia autoradio con amplificatore equalizzatore comprato di seconda mano che mi tenevano compagnia. La strada da percorrere era tutta in autostrada, quella italiana naturalmente a pagamento, quella austriaca senza alcun pedaggio. C'era da pagare soltanto il passaggio sul ponte Europa. Transitare sul ponte era piuttosto costoso, pertanto si usciva prima del ponte Europa e si rientrava subito dopo. Questa strada la chiamavamo l'economica, perché ci faceva risparmiare circa 30.000 lire, che venivano trasformate in fish. I share with you my story. Would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I done sowed. Hey, hey. Well, let me tell you something. All that glitters ain't gold. Hey, hey. It's been a long old trouble, long old troublesome road. And I'm looking for somebody. Come and help me carry this load. I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is falling down. And all I want is for someone to help me. I had a job, but the boss man let me go. He said, I'm sorry, but I won't be needing your help no more. I said, please, Mr. Boss Man, I need this job more than you know. But he gave me my last paycheck and he sent me on out the door. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Said, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. And I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with you my story, arrivai al casinò tutto incravattato. Nel giro di pochi minuti avevo già bruciato il mio budget di 100.000 lire. Evidentemente non era la mia giornata buona. Restai sconsolato a guardare giocare le altre persone, ma che ci fai in un casinò se non puoi giocare? La mia solitaria visita al casinò austriaco era davvero conclusa e non mi restava che tornarmene a casa senza nemmeno questa volta essere diventato ricco. Infilai in macchina e partii, destinazione casa. La musica amplificata della mia autoradio, mentre pensavo a quel 36 rosso, mi faceva compagnia. Uscii poco prima dell'imbocco del ponte Europa, per prendere l'economica. Stavo viaggiando tranquillo verso casa, immerso nei miei numeri fortunati, quando in un centro abitato di un paesino mi si piazza davanti una macchina che se ne va pacificamente ai 30 all'ora. Restai dietro per un po', Poi spazientito ingranai la terza e sorpassai. Quando fui a fianco, da buon italiano, gli urlai contro delle parole che l'austriaco non avrebbe capito, ovviamente. E lì vidi la luce della tartaruga austriaca nello specchietto. Poi una paletta con una lucetta rossa mi fece segno di accostare. Era la polizia austriaca. Sarà un banale controllo, pensai. Non avevo infranto nessun codice della strada ed ero pertanto tranquillo. Si avvicina alla macchina un tipo in impermeabile color khaki, tipo ispettore Derrick. Mi fece segno di uscire dall'auto. Ci avvicinammo ad un suo collega in divisa che teneva in mano uno strano attrezzo, una pistola un tantino strana. Era uno dei primi autovelox. In Italia non ne avevo mai visti. Mi fece guardare il display che indicava una velocità di 55 km all'ora. Pare che avessi superato il limite. Mi avvicinai a questo poliziotto e aveva una specie di pistola un po' strana. Non riuscivo a capire bene cosa fosse. Mi fa vedere un display e dove c'era la velocità che avevo fatto. Mi capì che era un autovelox, ma io in Italia mai ne avevo visto di quel genere. Io mai avevo visto un autovelox. Il poliziotto tirò fuori un blocco e una penna. Mi stava facendo una multa. Con che soldi avrei pagato se dopo quel 36 rosso avevo nel portafoglio solo 4.000 lire? Non avevo tempo di stare lì a pensare alle scuse da inventare. Dovevo impedire che questo incominciasse a scrivere, perché si sa, se la multa è scritta non può essere più strappata. Tirai fuori dalla tasca il portafoglio e lo aprì davanti ai poliziotti. Gli dissi: Ich habe kein Geld. Io non ho soldi. Il mio tedesco finiva lì, anzi sapevo dire anche Ich bin ein Esel, io sono un asino. Poi, non sapendo dire altro, dissi due parole: Casino Seefeld. Il poliziotto si fermò, guardò il portafoglio e interrogò con lo sguardo il collega, Derrick. Il tempo si era fermato. Senza dire niente, si avvicinarono alla mia auto, aprirono la portiera e ci guardarono dentro. Io li seguii senza capire le loro intenzioni. Radio, disse uno di loro. E io non capivo. Radio, di nuovo, con voce più chiara. Non capivo ancora. Indicò con il dito della mano la mia autorado. Radio! Sì, è una radio, dissi. Radio, con voce severa. Capii che cosa volevano. La mia autoradio. Non hai soldi, dacci l'autoradio. Erano stati chiari, anche se parlavano due lingue diverse. Restai ammutolito. Pensai che dovesse essere una prassi austriaca quella di prendere l'autoradio se non hai scellini per pagare la multa. E quindi adeguiamoci a questa norma, pensai. Se la consuetudine era così, non si poteva fare altro, avrebbero avuto la mia autoradio. Il problema era che la mia radio era vecchia, non era di quella estraibile. Distraibile però c'era l'amplificatore equalizzatore. Lo estrassi e glielo porsi. L'equalizzatore, per chi non l'avesse mai visto, è piccolo, con un sacco di lucette e dietro tantissimi fili. Il poliziotto lo guardò, lo girò e lo scrutò a fondo. L'espressione era chiara. Che cavolo di radio è questa? E con mia sorpresa me lo riconsegnò. Non gli piaceva. Gli avevo forse fatto compassione, non lo so. Mi fecero segno di andare. Solo che il mio amico camionista ci aveva raccontato che di norma si poteva lasciare una sorta di mancia ai poliziotti che erano stati buoni. Estrassi il portafoglio, tirai fuori le 4.000 lire che avevo e porgendole gli dissi: caffè, caffè. Mi guardarono in malo modo. Uno di loro mi fece segno con il capo di andare. Poi roteò la mano e la portò alla gola, mi mandò il segno dello sgozzamento. Era stato chiarissimo. Due culture diverse, ma i segni con le mani erano gli stessi. Salì in macchina e via, verso casa. Guidai fino al confine, senza accendere l'autoradio. Passai la dogana senza problemi e ritornai in Italia con la mia autoradio e il mio amplificatore ancora con me. Appena entrato in Italia mi sentì a casa, al sicuro. Accesi l'autoradio. Era proprio il caso di dire, come nella canzone di Vano Fossati, che la musica era passata. La mia banda suona il rock, tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock, bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh no, svegliate, suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. passaggi vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata, è un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto, lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta e non svegliate, oh, oh, oh, non ancora, e non fermateci, no, no, per favore no. Credo in una baita in montagna, Claudio, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito Radio 24, la nostra pagina. Voi siete qui, su una camicina grigia, dei capelli grigi tirati indietro e la barba un po' incolta. Insomma, c'è la faccia di uno che ne sa, ricorda un po' un giovane Mauro Corona. 800240024, parliamo di casinò oggi, di persone che ci vanno, un po' per abitudine e magari invece un po' per caso. Stiamo a Milano, andiamo ad Alberto. Pronto, Alberto? Sì, pronto. Ciao, buongiorno. Ciao, come stai? Bene, bene. Dove ti trovi? Dove ti trovi? La tangenziale intasata e piove. Giusto, è vero, perché oggi a Milano c'è una giornata orribile. Lo diciamo quando è una bella giornata, oggi possiamo dirlo. Alberto, cosa fai nella vita? Beh, nella vita, beh, io ho un'agenzia viaggi, però a parte questo, sì. Sentendo parlare di casinò e essendo io un antico affezionato, volevo dire la mia esperienza perché... Allora, io andai al casinò all'età di 18 anni, e quindi era l'81, sì. La prima volta, e mi portarono e si pagava un ingresso al casinò e ti davano una fish omaggio. In quale casinò era, Alberto, ti ricordi? Il casinò di Campione okay, d'Italia. Okay. E puntai, io non sapevo neanche come funzionasse la roulette, puntai la mia fish a cavallo di due numeri, mi ricordo tra il 14 e il 17, ma... E la pallina cadde sul 14 e io vinsi lì l'equivalente di, non so, 150.000 lire che io non avevo mai visti tutti insieme in vita mia. Mi diedero questa vincita e lasciai la fish e cadde ancora sul 14, poi non si ripeté la terza volta, però vinsi veramente una cifra che non... l'equivalente di uno stipendio. E lì avresti dovuto mollare il colpo, Alberto, invece in poi ci 50 sei... 50 secondi, no, attenzione, io attenzione. Non ho perso le due fish successive, ma sono tornato a casa con il mio gruzzoletto. Ma poi hai continuato a farlo nella vita, oppure? Poi ho continuato sempre a farlo, sono andato anche l'altro ieri sera e andrò subito dopo Natale, vado due volte alla settimana. Quanto hai perso più o meno nella tua vita, Alberto? Hai fatto questo? Ecco, adesso io non vorrei fare cattiva pubblicità, però... chi viene con me mi vede vincere 6 volte su 10, perché la maggior parte dei giocatori purtroppo è un po' malata, bisogna ammetterlo, il casinò e anche le persone che lo frequentano abitualmente non sono belle persone. Io sconsiglio a tutti di abituarsi con me, però c'è chi come me va spesso e spesso vince. L'importante è accontentarsi, come feci quella volta a 18 anni. Ok, Alberto, guarda, purtroppo ho altre telefonate sotto, devo lasciarti, però sostanzialmente, poi chiudo, hai più vinto o più perso? Ho più vinto, ti ringrazio, ciao Alberto, buona giornata, ciao. Andiamo a Udine da Marco, pronto Marco? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, dai, still alive. Grazie per essere qui. Ci racconti velocemente questa cosa. Che dici? Ero in Ecuador e per recuperare liquidità e scappare dal paese sotto il colpo di Stato sono andato al casinò. Esatto. Quanti anni fa erano? 2004, penso. Beh, in America Latina i colpi di Stato si contano a bizzeffe. Ok. Io mi trovavo a Quito, niente, colpo di Stato... Quando c'è un colpo di Stato di solito bloccano tutte le transazioni, quindi le carte di credito non funzionano. Sì. Io dovevo pagare il conto del mio hotel e non avevo liquidità, quindi avevo solo $50. Cosa faccio, cosa non faccio? Gli hotel internazionali hanno anche i casinò di solito sotto. Ho detto, vado giù, tanto l'Ecuador non ha una valuta locale, perché dopo, diciamo, il colpo di Stato nel 98 hanno adottato il dollaro e lì c'è il dollaro, non c'è più il sucre, che era la valuta vecchia. E ha funzionato? ha funzionato, sono qui perché sono riuscito a racimolare, se non sbaglio, un 600 euro, ho pagato, euro a quel tempo era dollari, scusa, sì. Ho racimolato l'ammontare sufficiente per pagare l'hotel, che erano 5-6 giorni, e sei tornato a casa. Preso il taxi, sono andato in aeroporto e adesso la posso raccontare, ecco. Ma Marco, mi ci dici che cosa facevi a Quito, in Ecuador? Io lavoravo per una multinazionale, niente, ero lì per vendere un qualcosa, diciamo così. No, niente di preoccupante, sono nell'ambito dell'acciaio, lavoravo per Va bene. E la minatoio. Va bene, va bene. Marco, ti ringrazio. Buona giornata. Tante cose, ciao. Ciao, presto. Cioè, è un caso buono in cui il casino è servito. L'ultima telefonata di oggi, andiamo a Palermo da Giancarlo. Pronto Giancarlo? Pronto Matteo, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. Bravissimo. Io invece sono il contrario di tutti loro, cioè? Nel senso che praticamente io ho cominciato a giocare da ragazzino, a 18 anni ho fatto, io ho 48 anni, quindi 30 anni fa ho fatto il mio primo viaggio a Venezia, Cava in Dramin, ho giocato partendo in treno, poi sono andato praticamente ogni mese a giocare, non so quanti soldi ho perso nella mia vita, io sono il lato brutto del casino, non gioco più da un paio d'anni. Da Tu hai smesso di giocare proprio perché ti sei reso conto che è una patologia, esatto. In fondo Giancarlo, esatto, no? Bravo, io ero un giocatore compulsivo, io ero capace di partire da Palermo con la mattina, arrivare a Venezia, che era il mio casino preferito, giocavo e ripartivo la sera. In macchina? No, in aereo. Ma scusami Giancarlo, ma tu avevi dei soldi, cioè fai un lavoro per cui te lo puoi permettere? Io faccio un lavoro che mi permetteva di avere molta liquidità, quindi praticamente questo ovviamente non significa che fossero tutti soldi miei, magari soldi incassi, però diciamo avevo una disponibilità. Cioè avevi dei contanti. Ma scusami, e poi devo salutarti, ma come ne sei uscito? Da solo o hai seguito una terapia? Da solo. Da solo, grazie aver capito che stavo rovinando definitivamente la mia vita, nonostante sia stato molto fortunato nella mia vita, nel senso che ho fatto anche delle grandi vincite, okay, tali da potermi, insomma, non essere stato proprio uno che si è rovinato, però ho visto tante gente rovinarsi. Giancarlo, ti ringrazio per quest'ultima telefonata, grazie, in bocca al lupo per tutto, ciao, grazie. Grazie, ciao. Visto che la notizia è di ieri, noi oggi la raccontiamo di nuovo. Raccontiamo che, visto che il primo gruppo ospite ai live di Voi Siete Qui del mercoledì, che ricominceranno a gennaio ovviamente, il primo gruppo ospite sono stati i Perturbazione. E visto che ieri è uscita la notizia che i Perturbazione saranno tra i gruppi in corso a Sanremo, noi gli facciamo i nostri migliori auguri. Mentre attraverso il centro della città. Il video del live è sul nostro profilo Facebook, è caricato dal nostro canale YouTube, ma se andate su Facebook Voi Siete Qui Radio 24 li trovate. Facciamo in bocca al lupo e Perturbazione. Ringraziamo Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Hina. Ringraziamo soprattutto Claudio, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Io sono Giorgio De Ferrari, sono nato a Genova ma vivo a Torino. La storia di domani è la mia e parla di dolci natalizi e di amicizia. Questa è la mia storia e io sono qui.